Capitolo 20. Consiglio segreto. Rinunziamo a cercare le parole per descrivere l'incontro della madre con le figlie. Certi momenti sono bellissimi a viverli, ma assai difficili da descrivere. Lasceremo dunque la cosa all'immaginazione dei lettori e diremo soltanto che la casa riboccava di felicità genuina e che la speranza gentile di Meg fu avverata, perché quando Beth si destò dal lungo sonno ristoratore, le prime cose che vide furono proprio il fiore sbocciato e il volto della mamma. Troppo debole per stupirsi, ella sorrise e si lasciò stringere fra le braccia materne con la gioia di un affamato a cui si dà finalmente da mangiare. Poi si addormentò ancora e le sorelle attesero a servire la mamma, perché la mamma non voleva aprire la piccola esile mano che anche nel sonno si aggrappava alla sua. Per la viaggiatrice Anna aveva combinato una colazione magnifica, l'unica maniera che trovò per dare sfogo alla propria emozione. Meg e Joe imbeccarono la mamma come due giovani cicogne premurose, mentre la sottovoce le informava di come stava il babbo e del signor Brooke che aveva promesso di rimanere lui ad assisterlo, e del viaggio ritardato dal maltempo, e del gran conforto che era stato per lei, sfinita dalla fatica, dall'ansietà e dal gran freddo, vedersi salutare all'arrivo dalla faccia di Lori, ottimista e sorridente. Fu una giornata strana, ma deliziosa. Il tempo s'era fatto bello, tutte le cose parevano illuminarsi per dare il benvenuto alla prima neve. Dentro la casa pace e riposo, tutti dormivano stanchi delle lunghe veglie, regnava un silenzio domenicale. Anna, di guardia sulla porta, sonnecchiava e la testa ogni momento le cadeva sul petto. Meg e Joe chiusero gli occhi con la sensazione deliziosa di chi ha deposto un greve carico e si lasciarono cullare dal sonno come, dopo la tempesta, le barche nella quiete sicura del porto. La signora March non volle muoversi dal seggiolone accanto al letto di Beth e ogni tanto si svegliava per guardarla, per toccarla, per godersela come l'avaro che ha ritrovato un tesoro. Lori se n'era andato da Amy a confortarla e a raccontarle ciò che avveniva in casa. La sua parola fu tanto eloquente che persino la zia Marce si commosse. Finì anche lei col frignare e non disse nemmeno una volta: «Ve l'avevo detto io». Amy si mostrò forte. È da credere che fosse già l'effetto dei buoni pensieri nella cappelletta. Ben presto si asciugò le lacrime, frenò la sua impazienza di vedere la mamma e non pensò affatto all'anello di turchesi, quando la vecchia signora approvò di cuore l'osservazione di Lori che Amy si comportava proprio come una brava donnina. Anche Polly pareva fosse colpito da ciò che vedeva, perché le diceva «Brava bambina!» e benediceva «I suoi bottoni!» e la invitava «A far due passi, tesoro!» col suo tono più affabile. Amy avrebbe avuto voglia di uscire a godersi la bella giornata invernale, ma si accorse che Lori, sebbene virilmente si sforzasse di non farlo vedere, moriva dalla stanchezza. Lo indusse perciò a sdraiarsi un poco sul sofà mentre lei scriveva un biglietto per la mamma. Ci mise molto tempo a scriverlo. Quando ritornò, lo trovò disteso, con le due braccia sotto la testa, che dormiva profondamente. La zia Marcia aveva abbassato le tendine e stava lì a sedere con un volto insolitamente benigno. Sembrava che Lori volesse dormire lì tutta la notte. E così forse sarebbe avvenuto, ma quando Amy vide comparire sua madre, fece un grido che avrebbe destato anche le pietre. Quel giorno in tutta la città ci saranno state molte bimbe felici, ma, per mio conto, io ritengo che nessuna era felice al pari di Amy quando, seduta sulle ginocchia della mamma, le raccontava le dure prove sopportate e ne riceveva il compenso e la consolazione dei sorrisi e delle carezze di lei. Erano sole nella cappelletta, che la signora Marcia non disapprovò quando gliene fu spiegata la ragione e l'origine. «Anzi, mi piace moltissimo, cara», disse, mentre il suo sguardo andava dal rosario polveroso al libricino molto consumato e da questo al bel quadro incorniciato di sempreverdi. «È un'ottima idea, un rifugio per venirvi a cercare la pace quando abbiamo qualche fastidio o qualche afflizione. Nella vita vi sono tante ore difficili, ma sempre si riesce a sopportarle se si chiede aiuto al cielo, come va chiesto. Spero che questa lezione l'avrà imparata la mia piccina, eh?» Oh sì, mamma, e quando tornerò a casa vorrei avere un angolo nello stanzino più grande, tutto per me, per metterci i miei libri e questa copia del quadro che mi sono provata a fare. La faccia non è venuta tanto bene, è troppo bella, non mi riesce. Il piccolo Gesù mi è riuscito meglio e mi piace tanto e gli voglio bene. È così dolce pensare che un giorno è stato un bambino anche lui, pare meno lontano e questo pensiero mi mette coraggio. Nella piccola mano levata ad indicare il bambino Gesù sulle ginocchia materne che sorrideva, la signora March osservò in quel momento una cosa che fece sorridere lei. Non domandò nulla, ma Amy vide lo sguardo, indovinò ciò che pensava la mamma e dopo una breve pausa le disse tutta seria: Te ne volevo parlare, ma poi me ne sono scordata. Questo anello me l'ha regalato la zia oggi. Mi ha chiamato, mi ha dato un bacio e poi me lo ha messo al dito e ha detto che io le faccio onore e desidera che lo tenga sempre. Mi ha dato pure questo curioso fermanello, vedi, perché l'anello mi va un po' largo. Li posso portare, è vero, mamma? Oh, sono cose molto carine, ma credo che tu sei ancora troppo giovane per questi ornamenti, Amy, disse la signora March, osservando la piccola mano grassoccia col cerchietto di pietre celesti intorno all'indice e il curioso fermanello fatto di due minuscole manine d'oro che si stringevano. Io cercherò di non essere vana, disse Amy. Non mi pare che mi piaccia solo perché è bello, ma lo vorrei portare come quella ragazza del racconto che portava il braccialetto per ricordarsi sempre di una cosa. Della zia, vuoi dire? Chiese la signora March ridendo. No, per ricordarmi di non essere egoista. Amy era così seria e convinta che la mamma non rise più e l'ascoltò attenta. In questi ultimi tempi ho pensato molto al mio fardello di difetti, e il più grosso è l'egoismo, e voglio cercare di guarirmene se ci riesco. Beth non è egoista, lei, e quello è il motivo per cui tutti le vogliono bene e soffrono tanto all'idea che se ne vada. Se invece di lei mi ammalavo io, non soffrivano neanche la metà perché io non lo merito. Ma io vorrei che tutti volessero bene a me pure, come a lei, e soffrissero per timore di perdermi. Perciò voglio cercare di somigliare a Beth più che posso. Io i proponimenti li dimentico con facilità, è vero, ma se avessi qualche cosa che me li fa ricordare ad ogni istante, mi pare che ci riuscirei meglio. Mi permetti di fare questa prova? Te lo permetto, ma ho più fiducia dell'angolo dello stanzino grande. Portalo pure l'anello, cara, e intanto cerca di fare meglio che puoi. Credo che farai progressi, perché quando c'è il desiderio sincero di essere buoni, la battaglia è già mezza vinta. E adesso devo tornare da Beth. Sta di buon animo, piccola mia, e presto ci ritornerai anche tu a casa. Quella sera, mentre Meg scriveva al padre per informarlo che la mamma era giunta e stava bene, Joe salì cheta cheta al piano di sopra e, trovando la madre al solito posto, rimase per un minuto con una mano fra i capelli. Si vedeva che era preoccupata, indecisa. «Cosa c'è, cara?» le chiese la signora March con un gesto della mano che invitava le confidenze. «Ho una cosa da dirti, mamma. Si tratta di Meg?» Come hai fatto a indovinare subito? Sì? Sì, si tratta di lei. È una cosa da poco, ma che mi fa stare sulle spine. Beth dorme, parla piano e dimmi tutto. Quel Moffat non è mica venuto? No, è vero. La domanda fu pronunciata con volto alquanto serio. No, mamma, gli avrei chiuso la porta in faccia se veniva, disse Joe sedendosi ai piedi della madre. Dunque, senti. L'estate scorsa Meg una volta dimenticò i guanti dei Lawrence e gliene fu restituito uno solo. Non ci pensavamo più, ma un giorno Teddy mi disse che il guanto mancante lo aveva il signor Brooke, lo teneva sempre nel taschino e una volta gli cadde. E Lori lo burlò un poco, ma il signor Brooke gli confessò allora che Meg gli piaceva tanto, ma non osava dirlo perché lei era troppo giovane e lui era povero. Non è orribile, mamma? Credi che Meg gli voglia bene? Chiese la signora March un po' preoccupata. Oh, signore, io non ne so nulla dell'amore e di quelle sciocchezze lì, esclamò Joe con un'espressione buffa di curiosità e insieme di noncuranza. Nei romanzi le fanciulle lo dimostrano col trasalire, arrossire, svenire, divenir magre e fare le sceme. Ora Meg non ne fa nessuna di queste cose, mangia, beve e dorme come una persona che ha la testa a posto. Quando io le nomino quell'uomo mi guarda in faccia e non batte ciglio. Solo arrossisce un po' quando Teddy le fa qualche allusione scherzosa agli innamorati e all'amore. Io gliel'ho proibito a Teddy, ma non mi dà retta abbastanza. Dunque, non ti pare che Meg se ne interessi di John? Di chi? Chiese Joe sorpresa. Del signor Brooke. Adesso lo chiamo John, io. Ho preso l'abitudine laggiù nell'ospedale e a lui fa piacere. Oh, signore, ma allora tu prenderai le sue parti, vedo. Perché è stato buono e premuroso per il babbo, tu adesso non vorrai che se ne vada e gli lascerai sposare Meg, se lui la vuole. Ti pare ben fatto da parte di lui? Tante attenzioni per il babbo e tante cortesie a te perché aveva un secondo fine, conquistarsi la vostra simpatia. E di nuovo Joe si diede una strappata ai capelli. Non ti arrabbiare, cara. Senti com'è stato. John venne con me pregato dal signor Lawrence e si dimostrò così devoto e pieno di premure con il babbo che il babbo non poté fare a meno di affezionarglisi. Riguardo a Meg, egli si è condotto con la massima franchezza e da uomo d'onore. Ci ha detto che l'amava, ma che prima di domandare a lei, se lo voleva, intendeva di farsi una buona posizione. È veramente un ottimo giovane e noi non abbiamo potuto rifiutarci di ascoltarlo. Del resto io non permetterò che Meg si impegni finché è così giovane. Si capisce? Allora sarebbe addirittura una cosa idiota. Ma lo sapevo io che si preparava un guaio, me lo diceva il cuore. E ora vedo che è peggio di quanto immaginavo. Vorrei poterla sposare io, Meg, e così rimarrebbe con noi. A questa ipotesi bizzarra, la signora March sorrise, ma poi si fece seria e disse: Joe, mi fido di te. Non devi dir niente a Meg ancora. Quando John sarà qui, li osserverò insieme e vedrò meglio quali sentimenti ha per lui Meg. Oh, ma lei si lascerà incantare dallo sguardo dolce, dagli occhi belli. Ne parla qualche volta e allora ciao. Ha il cuore così tenero, quella lì, che basterà un'occhiata languida per farlo squagliare come il burro. Non sai? I bollettini scritti da lui li leggeva e li rileggeva molto più delle lettere tue. E quando glielo dicevo mi dava i pizzicotti. E poi le piacciono gli occhi neri e John non le pare un brutto nome. E vedrai che cascherà come una pera matura. E allora addio la pace, addio l'allegria. Abbiamo finito di viver bene. Mi pare di vederli. Si metteranno a far l'amore qui e dovremo scansarci per non disturbarli. E Meg non capirà più niente e io non saprò più cosa farmene di lei. Lui avrà fortuna in un modo o nell'altro e ce la porterà via e io morirò di crepacuore e nulla andrà più bene. Oh, povera me, perché non siamo nate maschi tutte e quattro? Non sarebbero successe tante storie allora? E Joe chinò il volto sulle ginocchia, disperata, stringendo i pugni contro John il guastafeste. Ma udì la mamma sospirare e levò gli occhi, piena di speranza. Nemmeno tu ne sei contenta, mamma? Mi fa piacere, mandiamolo per i fatti suoi senza dir niente a Meg e staremo tutti allegri e contenti come prima. No, tu non mi hai capita, Joe. Ho fatto male a sospirare. Che ciascuna di voi si faccia una casa, una famiglia propria, è giusto, è naturale, col tempo. Certo, le mie bimbe le voglio con me finché posso, ma ciò che mi dispiace adesso è che la cosa sia venuta così presto. Meg ha appena 17 anni e ce ne vorranno altri perché John le possa offrire un tetto. Il babbo e io ci siamo messi d'accordo che lei non si deve impegnare e tantomeno sposare finché non ha 20 anni. Se si vogliono bene possono aspettare, così si vedrà davvero se è amore. Lei è coscienziosa e non temo che lo tratterà male. Ha un cuore tanto buono, la mia povera piccina. Spero che tutto le andrà bene. Ma non sarebbe meglio farle sposare un ricco? Interruppe Joe, mentre la voce tremante della signora March formulava il suo voto materno. Vedi, Joe, il denaro è una cosa buona e utile, e io spero che nessuna di voi ne abbia mai da sentire troppo la mancanza, e nessuna abbia mai da trovarsi esposta alle tentazioni a cui è esposto chi ne ha troppo. Mi accontenterei di vedere John con una posizione solida, in una buona azienda, che gli desse un'entrata sufficiente per metterlo al sicuro dai debiti e per dare a Meg un'esistenza comoda. Non ambisco per voi le grandi fortune, io, le posizioni brillanti nel mondo, i gran nomi. Se la posizione sociale e la ricchezza sono accompagnate dall'amore e dalla virtù, ben vengano e ne avrò piacere. Ma so per esperienza mia quanta felicità vera si può trovare anche in una umile casetta quando c'è il pane quotidiano. Certe privazioni fanno gustare meglio quel poco che si può avere dei piaceri della vita. Sono contenta che Meg parta da una posizione modesta perché, se io non prendo un grosso abbaglio, ella sarà ricca del possesso del cuore di un brav'uomo, che è meglio di una fortuna. Capisco, mamma, e sono d'accordo con te. Ma Meg mi ha dato una delusione. Io pensavo di farle sposare presto Teddy e vivere tutta la vita nel lusso. Non sarebbe stato bello? Chiese Joe levando gli occhi. Era un po' rasserenata ora. È più giovane di lei, tu lo sai, cominciò la signora March, ma Joe la interruppe. Questo non vuol dire, è abbastanza serio per l'età che ha, è alto di statura, se volesse sarebbe già un uomo fatto, e poi è ricco, generoso, di buon cuore, e ci vuole bene a tutti noi. Non è un peccato, dico io, che il mio progetto vada a monte. Temo che Lori non sia ancora abbastanza uomo per Meg, e poi, nell'insieme, è un po' troppo volubile ancora per ispirare fiducia. Non fare progetti, Joe, lascia fare al tempo e ai tuoi amici per queste cose. Non conviene mischiarsene, meglio non cacciarsi in testa le sciocchezze sentimentali, come dici tu. Sono cose che possono turbare l'amicizia e guastarla. Va bene, non ne farò nulla, ma mi dispiace vedere che le cose vanno a modo loro. Quando con una spintarella da una parte e una tiratina dall'altra ci sarebbe modo di farle andar bene. Basta, se saranno rose, fioriranno. Peccato però. Di che cosa parlate? Domandò Meg, che entrava senza rumore con la lettera pronta. Oh, niente, uno dei miei soliti discorsi senza importanza. Vado a letto. Andiamo, Peggy, disse Joe, cambiando faccia. Va benissimo, disse la signora March, restituendo la lettera a Meg dopo averla scorsa con l'occhio. Aggiungi per favore tante cose affettuose da parte mia a John. Lo chiami John? Chiese Meg, sorridendo e guardando in faccia la madre senza ombra di malizia. Sì, è stato come un figliuolo per noi e gli vogliamo bene molto, le rispose la mamma, scrutandola con l'occhio. E Meg, tranquilla. Ne ho piacere, è tanto solo, poveretto. Buonanotte, mamma. Ma come si sta meglio adesso con te qui, eh? La madre la baciò con tenerezza e quando le figliuole furono uscite pensò, con un misto di soddisfazione e di rimpianto, non lo ama ancora, ma presto imparerà ad amarlo. Capitolo 21. Lori ne fa una delle sue e Joe rimette pace. Il giorno dopo, la faccia di Joe era uno spettacolo da vedere. Le pesava il segreto di cui era a conoscenza e doveva fare un grande sforzo per non darsi un'aria di importanza e di mistero. Meg se ne accorse, ma non si curò di fare domande. Sapeva per esperienza che il modo migliore per farla parlare era di non mostrarsi curiosi. La reazione era inevitabile e Joe si sbottonava, ma questa volta Meg ebbe una sorpresa. Joe non fiatava, soltanto si dava una certa aria di protezione irritante e Meg a sua volta ne prese una di riserbo dignitoso e non faceva che attendere a sua madre. In tal modo Joe si trovò disoccupata e disorientata, perché la signora March la sostituiva come infermiera al letto di Beth, dicendole di riposarsi oppure muoversi e divagarsi un po' dopo la lunga reclusione. Amy non c'era, sicché Joe non aveva altro rifugio che Lori. Ma per quanto la compagnia di lui le piacesse, questa volta le faceva un po' timore, perché Lori era troppo abile a far cantare le persone ed ella temeva che le tirasse fuori il suo segreto. E aveva ben ragione di temere, perché non appena fiutò aria di mistero, il monellaccio si mise in testa di sapere e le rese la vita intollerabile. Lusinghe, scherni, minacce e parole dure, finte indifferenze. Tutto egli adoperava per strapparle la verità. Diceva che sapeva ogni cosa, poi dichiarava che non gliene importava niente, e tanto fece che alfine poté accertare almeno questo, che il segreto riguardava Meg e Brooke. Allora se l'ebbe a male perché il suo precettore non si era confidato con lui e si mise all'opera, voleva combinare una rappresaglia adeguata. Meg, intanto, sperava che avesse dimenticato la cosa e si affaccendava nei preparativi per il ritorno del babbo. Ma ad un tratto si vide in lei un gran cambiamento. Per un giorno o due parve un'altra. Se le parlavano dava un balzo, se la guardavano arrossiva, si teneva sempre da parte a cucire in silenzio con un'aria preoccupata e timorosa. Alle domande materne rispondeva che stava benissimo e che non aveva nulla, a quelle di Joe rispondeva che la lasciassero in pace. Lo sente nell'aria, l'amore voglio dire, e anche in lei fa progressi. Ha quasi tutti i sintomi, è impaurita, permalosa, non mangia, dorme male, se ne sta sempre in un canto mogia mogia. L'ho sentita che cantava Ruscelletto d'argento, una volta parlando del signor Brooke, lo ha chiamato John, come fai tu, e subito si è fatta rossa come un gambero. Che facciamo? Questo diceva Joe alla mamma e pareva decisa anche alle misure più violente. Nulla, aspettare. lasciarla in pace, essere buoni e pazienti. Vedrai, la venuta del babbo accomoda tutto, le rispondeva la madre. Un biglietto per te, Meg. Toh, guarda, è sigillato. Quelli che manda a me non li sigilla, Teddy, disse Joe l'indomani distribuendo la posta del loro piccolo ufficio. Lei e sua madre si erano rimesse con impegno alle loro faccende quando udirono un rumore dalla parte dove era Meg e, voltandosi, videro che guardava il biglietto con gli occhi fissi spalancati. «Cosa c'è, bimba?» le chiese la madre accorrendo mentre Joe cercava di togliergli di mano il biglietto che aveva fatto il male. «È un errore! È un errore! Non è lui che lo ha mandato! Oh, Joe, come hai potuto?» E nascondendo la faccia tra le mani, Meg piangeva disperatamente. «Io? Non ho mandato nulla, io! Cosa vai dicendo?» esclamò stupita Joe. Con gli occhi fiammanti d'ira, Meg si trasse di tasca il biglietto spiegazzato e lo gettò alla sorella. «Tu l'hai scritto e quel ragazzaccio ti ha aiutata! Come hai potuto essere tanto insolente, tanto vile, tanto maligna con noi due?» Joe l'udiva appena, assorta com'era insieme con la madre a leggere il biglietto, che era scritto con una calligrafia strana. Diceva: «Margherita adorata, non posso più frenare la mia passione e voglio sapere il mio destino prima di tornare. Ai vostri genitori non oso ancora dirlo, ma ritengo che acconsentirebbero se sapessero come ci adoriamo. Il signor Lawrence mi aiuterà a trovare un buon impiego e poi, Meg dolcissima, tu mi farai felice. Ti supplico di non dir niente ancora alla famiglia, ma di far giungere per mezzo di loro una parola di speranza al tuo per la vita, John». «Ah, canaglia, è così che mi fa perché ho mantenuta la parola alla mamma. Gliene voglio dir quattro, gli voglio far domandare perdono», esclamò Joe e voleva andar subito a far giustizia. Ma sua madre la trattenne e le disse con un volto che mostrava di rado: «Fermati, Joe. Prima devi discolparti tu. Ne hai fatte tante di birichinate che anche stavolta per qualche cosa c'entri». «No, mamma, in parola mia, questo biglietto lo vedo adesso per la prima volta e non ne sapevo nulla, com'è vero che ti guardo?» dichiarò Joe a fronte alta e con tale accento di verità e di serietà che le credettero subito. «Se ci avessi messo le mani l'avrei fatto meglio io, avrei scritto con più cervello e anche il signor Brooke. Vi pare roba scritta da lui questa? Dovreste capirlo subito», aggiunse poi restituendo il biglietto a Meg con un gesto sdegnoso. «La scrittura è la sua», disse Meg con voce tremante mentre confrontava con un altro scritto di Brooke. «Meg, non gli avrei mica risposto, esclamò subito la signora March. «Oh sì, mamma!» E piena di vergogna, Meg si nascose di nuovo il volto fra le mani. «Peggio! Lasciatemi andare, lasciatemi trascinare qui quel ragazzaccio a spiegarsi, a farsi dire il fatto suo. Io non avrò pace finché non l'ho preso per il collo», e Joe fece ancora per andarsene. «Silenzio! Lascia fare a me. Allora è peggio di ciò che credevo, Margherita. Raccontami tutto», disse la signora March in tono di comando, andando a sedersi accanto a Meg, ma senza mollare Joe per timore che le scappasse. «Ho ricevuto la prima lettera dalle mani di Lori. Lui non aveva l'aria di sapere di che si trattasse», cominciò Meg con gli occhi bassi. «Sono stata in gran pensiero sulle prime e volevo dirtelo, mamma, ma ho considerato che tu al signor Brooke volevi tanto bene e non ci avresti badato se il mio piccolo segreto me lo tenevo per me sola qualche giorno. Un'idea sciocca, ma mi piaceva di pensare che nessuno lo sapeva, e mentre stavo decidendo cosa rispondere mi pareva d'essere come un personaggio di romanzo, perché avevo anch'io una corrispondenza, così. Perdonami, mamma, sono stata sciocca, ma ora ne sono punita. Come potrò guardarlo in faccia adesso?» «Cosa gli hai risposto?» «Gli ho scritto semplicemente che ero ancora troppo giovane per decidermi, che non volevo avere segreti con te e che parlasse col babbo, che gli ero grata della sua gentilezza e che per molto tempo intendevo restare per lui un'amica e nient'altro». La signora March sorrise contenta. Joe batté le mani ed esclamò ridendo: «Oh, proprio come Carolina Percy hai fatto, che era un modello di prudenza! Vai innanzi, Meg, cosa ti ha scritto lui allora?» Il secondo biglietto era tutto diverso. Diceva che non mi aveva scritto nessuna lettera d'amore e gli dispiaceva molto che quella canaglietta di mia sorella, ossia tu, Joe, si prendesse certe libertà coi nostri nomi. Era molto gentile e rispettoso, ma capirete che orrore quando lessi. E Meg, disperata, si chinava verso la mamma, mentre Joe percorreva a gran passi la stanza con epiteti vari all'indirizzo dell'assente Lori. D'un tratto si fermò, prese in mano i due biglietti e, dopo averli ben esaminati, disse sicura: Non sono di Brooke, nessuno dei due. Li ha scritti Lori tutti e due e si tiene la tua risposta per poter dare la baia a me, che non gli volevo dire il segreto. Cos'è quest'altra storia di segreti, Joe? Disse Meg. Dillo subito alla mamma come avrei dovuto fare io, sarà meglio per te. Ma, cara mia, dalla mamma appunto l'avevo saputo il segreto. Basta, Joe, va bene. Lasciami qui a consolare un po' Meg e tu intanto va da Lori. Voglio andare in fondo a tutta la faccenda e che sia finita subito con questo genere di scherzi. Joe uscì di corsa e la signora March con delicatezza si mise a spiegare alla figlia maggiore quali erano i sentimenti di Brooke. E ora dimmi un po' tu, cara, quali sono i tuoi? Gli vuoi bene, tanto da aspettare che si faccia una posizione, o preferisci per ora non impegnarti? Oh, mamma, ho avuto tanta paura e tante noie che di innamorati non ne voglio più sentir parlare per un pezzo. Forse per sempre, rispose Meg arrabbiata. Se di tutta questa storia sciocca John non sa niente, non gli diciamo niente e Joe e Lori stiano zitti. Non voglio essere presa in giro e seccata e messa in ridicolo. È una vergogna. Vedendola così irritata, lei tanto buona e tranquilla di solito e offesa anche nell'orgoglio, la signora March, per calmarla, le promise il silenzio più assoluto e la più gran discrezione per il futuro. Si udì nell'atrio il passo di Lori. Meg subito scappò nello studio e l'imputato venne ricevuto dalla signora March soltanto. Joe non gli aveva detto perché lo volevano, temendo che non venisse. Ma appena vide la faccia della signora March, egli capì immediatamente e restò lì a rigirarsi il cappello fra le mani con aria colpevole che lo denunziava a prima vista. Joe fu mandata via, ma a buon conto rimase nell'atrio a fare i 100 passi come una sentinella, perché aveva un po' timore che l'imputato prendesse la fuga. Per mezz'ora udì nel salotto le due voci che salivano e scendevano, ma ciò che dissero ella non lo seppe né allora né mai. Quando le due ragazze vennero chiamate dentro, Lori stava ritto davanti alla loro mamma e aveva l'aria talmente pentita che Joe in cuor suo gli perdonò subito, ma non ritenne opportuno lasciarglielo vedere. Meg accettò le sue umili scuse, molto confortata dall'assicurazione che Brooke non sapeva nulla. Scenderò nella tomba senza dirglielo, diceva Lori, tutto vergognoso e compunto. Nemmeno con gli argani mi tireranno fuori una parola. Dunque, perdonami, Meg, dimmi cosa vuoi che faccia per assicurarti fino a che punto sono pentito. Perdonarti? Cercherò, ma non è stata un'azione da gentiluomo. Non ti avrei mai creduto così maligno, Lori, gli rispondeva Meg, cercando di nascondere la sua confusione col darsi un'aria grave e severa. Hai ragione, sono stato un animale. Meriterei che tu non mi parlassi per un mese, ma tu non lo farai, è vero? E Lori, a mani giunte, la pregava e girava gli occhi con un'aria tanto avvilita e pentita, un po' troppo forse, e aveva un tono tanto persuasivo che, malgrado la sua condotta scandalosa, era impossibile tenergli il broncio. Meg lo perdonò. Anche il volto della signora March si rasserenò, per quanto cercasse di restare seria, quando egli si dichiarò pronto a subire qualunque penitenza, a prostrarsi come un verme ai piedi dell'offesa donzella. Joe intanto stava sulle sue, si sforzava di rimanere inflessibile e riusciva soltanto a darsi un'aria di disapprovazione intransigente. Lori la guardò di sottecchio una volta o due, ma vedendo che non dava segno di mollare, si sentì offeso anche lui e le voltò le spalle per ascoltare le altre due. Quando queste ebbero finito, fece un profondo inchino a Joe ed uscì senza dir parola. Appena uscito lui, Joe si pentì di non essere stata più arrendevole. La mamma e la sorella salirono al piano di sopra ed ella rimase sola. Avrebbe voluto che Teddy fosse ancora lì, per un po' tenne duro, ma alfine cedé all'impulso e, preso un libro pretesto, si recò dal vicino. «C'è il signor Lawrence?» chiese ad una cameriera che scendeva le scale. «Sì, signorina, ma non credo che in questo momento sia visibile». Perché sta forse male? Oh no, signorina, ma ha avuto una scena col signorino che ne ha fatta una delle solite, perciò il signore è molto adirato e io non mi arrischio ad andarci. E il signorino Lori dov'è? In camera sua, chiuso. Ho bussato, ma non risponde. Non so come andrà a finire il pranzo, che è pronto e nessuno va a tavola. Ora vado io a vedere cos'è. Non mi fanno paura a me, nessuno dei due. E Joe salì risoluta a bussare allo studiolo di Lori. Smettila, se no apro e ti faccio smettere io, gli gridò di dentro il signorino. La voce era minacciosa. Subito Joe tornò a bussare. La porta si spalancò e lei vi si infilò pronta prima che Lori si riavesse dalla sorpresa. Vide che era arrabbiato davvero, ma lei sapeva come prenderlo. Fece la faccia contrita e, cadendo drammaticamente in ginocchio, disse tutta umile: «Sono venuta a chiederti perdono. Sono stata cattiva poco fa. Facciamo pace adesso. Non esco di qui, se no». «Va bene, alzati e non fare la stupida», rispose il ragazzo senza cavalleria. «Grazie, mi alzerò, ma si può sapere cos'è stato? Sei un po' turbato, si direbbe». «Mi ha preso per le spalle, capisci? Così, e io non permetto», borbottò Lori indignato. «Chi?» «Il nonno! Se era un altro, non importa chi gli...» E il gesto energico del braccio finì la frase. «È tutto qui? Ti ci prendo tante volte io per le spalle e non dici nulla?» osservò Joe con dolcezza. «Tu sei donna e fra noi si scherza, ma da un uomo non lo tollero io». «Oh, non credo che ci si proverebbe nessuno se ti vedesse in questo momento con codesta faccia di burrasca. Perché ti ha trattato a quel modo?» «Soltanto perché non gli ho voluto dire che cosa voleva da me tua madre. Ho promesso di non dirlo e naturalmente non manco alla parola». «Non potevi accontentarlo in qualche altro modo?» «No, voleva la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Io gli ho confessato la parte che potevo, la colpa mia, ma quando si è trattato di scoprire Meg mi sono fermato e l'ho lasciato dire, finché non mi ha messo le mani addosso e allora mi sono arrabbiato e son fuggito. Temevo di non frenarmi». «Ha fatto male, ma quest'ora è già pentito, ne sono certa. Adesso tu vai giù e fate pace. Ti aiuterò io». «Io? Andare da lui? Mi fo tagliare la testa prima». «Sta a vedere che adesso per uno scherzo da nulla tutti mi hanno da far la predica e da tirar le orecchie. Con Meg ero pentito e gliel'ho detto, da uomo. Ma adesso basta, eh? Non intendo farlo ancora. Sono dalla parte della ragione». «E lui non lo sa questo». «Doveva credermi e non trattarmi da bimbo. È inutile, Joe. Si deve mettere in testa che so come devo agire. Non ho più bisogno di tenermi alle gonne della bambinaia». «Accidempoli, che puntiglio tutti e due», sospirò Joe. «E come la vuoi accomodare?» «Senti, tocca a lui chiedermi scusa, e quando gli dichiaro che non posso dirgli il perché dell'incidente con voi, mi deve credere». «Ma, caro mio, lui, scusa, non te la chiede». «E io non ci vado». «Oh, senti, Teddy, devi essere ragionevole. Lascialo sbollire un po'. Ci vado io a spiegargli fin dove si può. Così non potete restare, no? E allora a che serve fare tante scene?» «Restare? Non ne ho nessuna voglia io, non l'avevo già prima. Questa è la volta che filo davvero. Vado a fare un viaggio, non importa dove. Quando avrà provato a starci senza di me, vedrai che molla, e anche presto». «Forse sì, ma perché dargli un dispiacere?» «Non mi fa la predica adesso, eh? Vado a Washington a vedere Brooke. Laggiù è bello, mi divertirò un po' dopo tanti fastidi». «Oh, che bellezza, come scapperei con te!» esclamò Joe. Visioni della capitale e della guerra le passavano davanti e le facevano scordare la parte di mentore che si era assunta. «Tu vienci, perché no? Fai una bella sorpresa a tuo padre. E io sveglio un po' Brooke. Una magnifica burla. Facciamogliela, Joe. Lasciamo una bella lettera dicendo che stiamo benissimo per rassicurare tutti e via. Denaro ne ho abbastanza. A te farà un mondo di bene. Male non ce n'è, ad ogni modo. Vai da tuo padre». Per un momento parve che Joe volesse acconsentire. Il disegno era pazzo, ma le andava proprio a genio. Era stanca di tanti pensieri, era stanca di stare rinchiusa, aveva una gran voglia di cambiare un po'. Il pensiero del babbo si aggiungeva alle immagini seducenti di una vita nuova, gli accampamenti, gli ospedali, la libertà, la novità. I suoi occhi si volsero con un lampo verso la finestra. Guardarono fuori, ma di fuori le caddero sulla vecchia casa e Joe chinò il capo. Il fuoco negli occhi si spense. Ahimè, bisognava rinunziare. «Ah, se fossi un maschio! Si fuggirebbe insieme davvero. Sarebbe magnifico. Ma non sono che una ragazza. Maledette le sottane! Devo tenere un contegno corretto. Devo starmene a casa. Non mi tentare più, Teddy mio. È un progetto sballato». «Tanto meglio!» esclamò Lori. Si era impuntato, li voleva rompere a tutti i costi i suoi legami. «Non mi dir più niente!» esclamò Joe, coprendosi le orecchie con le mani. «Il mio destino è di fare la calza, e allora tanto vale che mi ci adatti. Sono venuta per farti la morale, per ricondurti sul sentiero della virtù, non per sentirmi dire delle cose che mi fan venire voglia di uscirne io». Senti, se lo avessi proposto a Meg capirei, ma tu, con lo spirito che hai, mi vieni a dar la doccia fredda? Non me l'aspettavo da te. La voce di Lori era insinuante. Basta, ragazzaccio, siedi un po', rifletti, pensa alle tue colpe e non cercare di farne commettere delle altre anche a me. Se riesco a farti chiedere scusa dal nonno per il modo come ti ha trattato, mi prometti che non scapperai? Joe si era fatta molto seria. Sì, ma non ci riesci. Lori, in fondo, desiderava di far pace, ma la sua dignità offesa chiedeva soddisfazione. Oh, se ce l'ho fatta col ragazzo, ce la farò anche col vecchio, borbottò Joe e lo lasciò lì a studiare, col mento fra le mani e i gomiti sulla tavola, la carta delle ferrovie. Avanti, rispose la voce del vecchio Lawrence, più brusco del solito, quando Joe bussò da lui. Sono io, signor Lawrence, vengo a riportare questo libro, disse lei con dolcezza, entrando. Vuoi altro? Il vecchio era accigliato, seccato e non voleva mostrarlo. Sì, se non disturbo. Il vecchio Sam mi è piaciuto molto. Prenderei il secondo volume. Il Johnson di Boswell non era molto divertente per Joe, ma il signor Lawrence gliel'aveva raccomandato e lei adesso, per fargli la corte, gliene domandava un'altra dose. I cespugli grigi delle sopracciglia si spianarono un poco. E il vecchio si volse verso lo scaffale dove stava tutta la letteratura johnsoniana. Joe fu pronta a prevenirlo e dall'alto della scala a libretto, mentre fingeva di cercare il volume, pensava in realtà al modo di portare il discorso sulla materia scottante per la quale era venuta. Parve che egli sospettasse qualcosa, perché fece un paio di giri su e giù per la stanza ad un passo vivace e poi d'un tratto si voltò ed entrò in argomento lui ex abrupto. A Joe sfuggì di mano, rasselà e cadde spalancato sul pavimento a faccia sotto a piè della scaletta. Che diavolo ha combinato quel ragazzo? Non cercare di coprirlo, eh? So che ne ha fatta una. Me ne sono accorto subito quando ho visto com'è tornato a casa. Ma non mi è riuscito a tirargli fuori una parola. L'ho minacciato, l'ho preso per le spalle, è scappato di sopra e si è chiuso in camera sua. Ecco, vedete, sì, qualcosa che non andava l'ha fatto, ma noi lo abbiamo perdonato e tutti abbiamo promesso che non se ne parlerà più con nessuno, incominciava Joe come a stento. Che? Non si vada a nascondere dietro una promessa fatta a due bambine che si lasciano convincere subito. Se ha fatto una cosa che non va, deve confessarlo, deve chiedere scuse e subire il castigo che merita. Parla, Joe, non intendo che mi si tenga all'oscuro. La faccia del signor Lawrence non prometteva nulla di buono. Il tono era secco e risoluto. Joe sarebbe scappata molto volentieri, ma appollaiata lassù e col leone sul sentiero non c'era scampo. Dove starci? Ed affrontare il nemico. Signor Lawrence, io non vi posso dir nulla. La mamma ce l'ha proibito. Lori ha confessato, ha chiesto scusa ed è stato punito abbastanza, credetemi. Noi stiamo zitte, non per coprire lei, ma qualcun altro. Se vi ci mischiate voi, sarà peggio. Lasciate stare, ve ne prego. La colpa è stata anche mia. Adesso tutto si è accomodato e non se ne deve parlar più. Scordiamocene. Parliamo del randagio, di qualcosa di allegro, insomma. Al diavolo il randagio! Scendi giù e dammi la tua parola che quel ragazzaccio senza giudizio non ha fatto niente di male. Non si è reso colpevole di ingratitudine dopo tutte le gentilezze che ha ricevuto in casa vostra. Perché se lo ha fatto, lo voglio punire io con le mie mani. La minaccia era terribile. A parole, ma Joe non fece impressione. Ella sapeva bene che quel vecchio signore iracondo non avrebbe mai alzato un dito contro il nipote, per quanto dicesse. Ella scese dalla scaletta e gli spiegò quello che aveva fatto Lori, ma parlandone come di una cosa senza importanza e in termini talmente vaghi da non compromettere Meg e nello stesso tempo evitando di mentire. Beh, va bene allora. Se il ragazzo tace perché ve l'ha promesso e non per ostinazione, gli perdonerò. Perché ostinato è, sai, è un caratteraccio, diceva il signor Lawrence, e con le mani nei capelli se li riduceva come uno che è stato al vento senza cappello. Le sopracciglia non erano più ispide e nel volto rasserenato c'era adesso un'espressione di sollievo. Sono fatta come lui anch'io, credete, ma basta una parola buona per ottenere da me quello che con le cattive non si otterrebbe mai, disse Joe. Ma subito ebbe una gran paura di nuocere a Lori in un altro modo e metterlo in un nuovo guaio per tirarlo fuori dal primo, perché adesso il vecchio si adombrava da capo e le chiedeva: «Secondo te io non sono buono con lui, eh?» Oh no, signore, voi siete anche troppo buono certe volte, soltanto che quando lui mette alla prova la vostra pazienza, allora non state a misurare tanto le parole, non vi pare? Risoluta com'era a liquidare l'incidente una volta per sempre, Joe cercava di darsi l'aria più placida del mondo, ma appena pronunciate queste parole audaci, sentì dentro di sé una gran paura. Ma con sua sorpresa e anche sollievo, il vecchio si limitò a togliersi gli occhiali dal naso e gettarli sulla tavola con pericolo di romperli ed ammise franco: Sicuro, figliuola, è vero, sono proprio così. Gli voglio bene a quel ragazzo, ma lui mette alla prova la mia pazienza e passa i limiti. Non so come andrà a finire se continua così. Ve lo dirò io, vi scappa di casa. Appena detto questo, Joe se ne pentì. Ma aveva parlato a fin di bene. Soltanto per avvertire il vecchio che Lori non sopportava troppo il freno e così indurlo alla pazienza. Ma il volto rubizzo del signor Lawrence cambiò colore. Egli si abbandonò sopra una sedia e per un momento il suo sguardo si posò con segni di vivo turbamento su un ritratto appeso alla parete davanti a lui, una bella figura d'uomo, suo figlio. Ossia il padre di Lori, che da giovane era scappato davvero di casa e si era sposato contro la volontà tirannica del padre. Joe sentì che in quel momento il vecchio signore rivedeva il passato e ne aveva rimorso. Avrebbe voluto non aver parlato come aveva parlato e riprese pronta. Oh, non lo farà, però, sapete, a meno che non si trovi proprio spinto. Qualche volta lo dice, è vero, quando è stufo di studiare. E certe volte mi pare che andrei via anch'io, specialmente ora che ho i capelli tagliati. Perciò, se un giorno o l'altro non ci vedete più, preparate gli annunzi sui giornali per ritrovare due ragazzi e fateli cercare sui bastimenti che caricano per l'India. Joe volgeva il discorso in riso. Il signor Lawrence rifiatò. Dunque era uno scherzo. Ah, canaglietta, come ti permetti di dire certe cose? Bel rispetto, bel riguardo per l'educazione che ti hanno dato. Ragazzacci benedetti, che tormento quando vi ci mettete. E tuttavia non sappiamo stare senza di voi. E rideva il signor Lawrence e le pizzicava il ganascino. Va di sopra e fammelo venire giù a pranzo quel monello. Digli che va bene e che non prenda delle arie tragiche, che non ne vuole suo nonno di arie. Non verrà, sapete, è troppo offeso. Non gli avete creduto quando vi diceva che non parlava perché non poteva parlare. E poi gli avete messo le mani addosso. A questo punto Joe cercò di darsi un'aria patetica, ma non ci dové riuscire, perché il vecchio si mise a ridere. Intanto però la battaglia era vinta e lei lo sentiva. Oh, dolentissimo! Ho forse da ringraziarlo perché non le ha messe lui addosso a me, le mani? Che diavolo pretende? E il signor Lawrence rideva ora, ma per nascondere una certa vergogna che sentiva della propria ostinatezza. Al vostro posto, signor Lawrence, sapete cosa farei io? Delle scuse per iscritto. Ha proprio detto così, sapete, che non scende se non gliele fate. E dopo ha parlato di Washington e altre sciocchezze. Una scusa formale scritta gli mostrerà quanto è scemo e verrà giù buono buono. Provate, gli scherzi gli piacciono, gli farete più effetto che con un discorso. Il biglietto glielo porto io e gli insegno qual è il suo dovere. Il signor Lawrence la scrutò un poco e si rimise gli occhiali, dicendo lentamente: Sei furba tu, canaglietta. Ma finché siete tu e Beth che mi menate pel naso, non me ne importa. Su, dammi la carta e finiamola con questa buffonata. Il biglietto fu scritto nei termini che avrebbe usato un gentiluomo che ha insultato gravemente un altro gentiluomo. Joe depose un bacio sulla calvizie del signor Lawrence e corse di sopra per consegnare lo scritto a Lori. Prima, attraverso la toppa della serratura, gli diede il consiglio di mostrarsi arrendevole e insieme dignitoso e altre cose impossibili ma ragionevoli. Poi, siccome la porta non si apriva, ella infilò il biglietto di sotto, che facesse effetto da solo, e discese. Ma lungo la scala si vide guizzare accanto a cavalcioni sulla balaustra Lori, che l'aspettò in fondo e le disse con la sua aria più virtuosa: Sei veramente buona, Joe. E poi le chiese ridendo: Ma non ha dato in escandescenze? No, è stato ragionevole in complesso. Così ci sono andato di mezzo io solo. Anche tu ce l'avevi con me là, a casa tua, tutti contro di me, poveraccio. Non parlare così, volta la pagina e cominciane una nuova. Non faccio altro io, come una volta coi quaderni, li consumavo tutti così, ricominciavo sempre da capo. Ah, quando finirà? Vattene a pranzo adesso, dopo ti sentirai meglio. Voi uomini brontolate sempre quando avete fame. E così dicendo, Joe uscì dalla porta di casa, mentre Lori le gridava dietro. Protesto, in nome della solidarietà mascolina. Sì, anzi, della solidarietà virile, come dice Amy quando va nel difficile. E Mojo Mojo se ne andò a tavola. Durante il pranzo e tutto il resto della giornata, il nonno fu di un umore angelico e pieno di riguardi. Tutti pensavano che la cosa fosse morta e sepolta e la piccola nube dileguata, ma il male, tale lo considerava Joe, era fatto. Gli altri parevano dimenticare, ma Meg ricordava. Non la nominava mai quella certa persona, non faceva nemmeno un'allusione, ma ci pensava molto e sognava. Ah, sognava. Una volta Joe, andando a frugare nel cassetto della sorella per trovare dei francobolli, trovò invece un foglietto ricoperto da una scrittura che ripeteva sempre le stesse parole, come un esercizio di calligrafia. Margherita Brooke, nata March. Joe emise un gemito e con un gesto furioso prese il foglietto e lo gettò nel fuoco. Anche lo scherzo sciocco di Lori aveva contribuito ad affrettare il giorno crudele che le avrebbe portato via la sua Meg.